Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fujiko, siamo rientrati noi di 451 intersezioni, puntata di aprile dopo le festività pasquali, siamo rientrati in diretta. Ricordiamo sempre il nostro sito blog noblog 451frammentisonori.noblogs.org, dove potrete ritrovare le puntate di 451 intersezioni e anche di 451 frammenti sonori, che è la trasmissione gemella dentro il progetto 451, che viene da sempre su Radio Città Fujiko ogni mercoledì dalla mezzanotte alle 2 circa, condotta dal compagno amico Max Macchia. Una buona serata da Elisio Scarpa per questa serata di 451 intersezioni, una puntata che vuole essere, diciamo, primaverile, vitale e solare. Infatti il tema di stasera si intitola Sensazioni vitali e attraverserà musiche sia elettroniche che sperimentali, ma con un'aria, con un atteggiamento, con un influsso sicuramente benefico, vitale, vitalista e solare, e attraverso una sorta di piccolo viaggio che faremo insieme con vari autori, anche accomunati per alcuni aspetti ma anche molto distanti per altri. Attraverseremo l'elettronica, la contemporanea, per arrivare a certe forme di jazz sperimentale, ma appunto aperto e solare, ma anche a delle forme di pop elettronico che hanno attraversato soprattutto gli anni 90, che devo dire sono stato chiaroscuri soprattutto nell'ambito elettronico, ma che hanno fatto emergere anche molte suggestioni sicuramente vitali e vitaliste negli anni 90. E apriamo subito il percorso di stasera ascoltandoci un vero e proprio gioiello di un grande compositore assolutamente eclettico e aperto a 360 gradi, come vorremmo cercare di essere anche noi come conduzione radiofonica, come programma radiofonico. Parliamo di Ryuichi Sakamoto, che ha fatto uscire appunto un gioiello, un album splendido, Chasm, uscito nel 2004, splendido lavoro di Ryuichi Sakamoto, che attraversa veramente vari linguaggi musicali, dall'elettronica al pop al jazz, a dimensioni quasi legate a certe sperimentazioni rumoriste in alcuni momenti, e soprattutto nel brano che ascolteremo adesso, un vero e proprio capolavoro musicale, una sorta di minimalismo con voce, con strutture elettroniche e anche strumenti acustici, che crea un flusso estremamente suggestivo e positivo, estremamente vitalista, e che in alcuni momenti ricorda sicuramente anche certe sperimentazioni, appunto figlie di un certo minimalismo, ma rapportate anche dentro un linguaggio che richiama anche certe melodie, certe ritmicità tipiche orientali. Andiamocelo subito a sentire dall'album Chasm, Ryuichi Sakamoto, splendido lavoro in apertura di stasera, puntata Sensazioni vitali. Buon ascolto. Animals that like peace and animals that like war? love without thinking. Love without we thinking. Love without do we do the right thing? Do we do the right thing? Do we do the right thing? Do we do the right thing without thinking? Do we do the right thing? Do we do the right thing? Do we do the right thing? Do we do the right thing with the right thing without thinking? We do the right thing. We do the right thing. We do the right thing. Do we do the right thing? Do we do the right thing? Do we do the right thing without thinking? Without thinking. When children fight with their brothers and sisters, are they learning how to make war? When children fight with their brothers and sisters, are they learning how to make war? How do we test limits of our bodies? How do we test the limits of our bodies? How do we test the limits of our bodies? Siamo rientrati in diretta dopo questo capolavoro vero e proprio di Ryuichi Sakamoto, Chasm, disco uscito nel 2004, dunque circa 10 anni fa, estremamente però vitale e presente anche in questi anni, direi. Dopo Ryuichi Sakamoto ci spostiamo dal Giappone, poi in realtà Sakamoto ha vissuto per molto tempo in America, Stati Uniti, in Europa, dunque è un giramondo, è un giapponese di nascita ma quasi cittadino del mondo in acquisizione. Ci spostiamo comunque in terra squisitamente statunitense, terra dell'Illinois, andiamo a pescare veramente quasi da un laghetto dell'Illinois, Bill Loswell, grandissimo compositore nonché bassista importantissimo della scena musicale sperimentale e non solo, perché si è sicuramente anche esposto in vari progetti estremamente aperti anche a contaminazione più squisitamente funk, ma anche in alcuni momenti anche rock o wave. È dunque un musicista sicuramente estremamente aperto a molte moltissime sperimentazioni, e l'andiamo a prendere praticamente da un lavoro uscito esattamente nel 2001, dunque 3 anni prima di Chasm di Sakamoto, Points of Order, splendido lavoro dove ci sono estreme e forti suggestioni musicali riferite a atmosfere degli anni 70, un jazz rock, a un funk psicadelico che viene reintrodotto ovviamente con delle colorazioni più legate agli anni zero, dunque più elettronica, con dei suoni sicuramente differenti, ma con quella appunto suggestione, con quel linguaggio, con quel rimando a quelle sensazioni vitalistiche, quasi orgiastiche in alcuni momenti, che erano figlie proprio degli anni 70. E devo dire che è stato estremamente bravo Loswell a ricreare questa atmosfera, questa situazione. Loswell, lo ricordiamo per per coloro che non lo conoscessero, comunque avessero poche informazioni, è stato uno dei fondatori, nonché parte integrante e fondamentale di progetti incredibili che hanno segnato la musica degli anni 80 e anche della musica degli anni 90, degli anni zero. Il gruppo dei Material, ma ha partecipato ed è stato parte di progetti importanti anche elettronici anche degli anni 90 con il progetto Psycho Navigation, ma anche ricordiamo Golden Palominos, sempre anni 80, e progetti anche che l'hanno visto presente ad esempio in un'altra formazione come Last Exit. Dunque tanti progetti, tante collaborazioni, ma soprattutto un'infinità di lavori, di dischi e di performance in quasi 40 anni di musica e di composizioni musicali. Ce l'andiamo a ascoltare dunque da questo album Points of Order del 2001, una traccia assolutamente suggestiva e assolutamente vitalista. Buon ascolto con Bill Oswell. We'll be right back. Siamo rientrati in diretta dopo aver ascoltato questo splendido lavoro di Bill Lozell, Poets of Order, uscito nel 2001, e rimanendo dentro un'idea ancora più solare e sicuramente positiva, anche perché questo brano iniziava con un'apertura sicuramente molto vitale, ma poi entrava quasi in una dimensione intimista con fortissimi riferimenti devisiani a livello proprio compositivo, qualcosa proprio di fortemente legato al periodo 60-70 di Miles Davis, che elaborava queste atmosfere psichedeliche con Rhodes, effetti ovviamente riverberi di lei che creavano queste atmosfere uniche, che rimangono ancora estremamente uniche, devo dire. Lozell con grande capacità è riuscito a inserirlo dentro un suono e una composizione invece figlia degli anni zero, seppur a legami fortissimi, alle radici molto profonde nel passato nero a cui spesso Lozell si rifà, quello jazz, funk e psichedelico degli anni 70, ma anche in parte chiaramente la sua esperienza d'inizio carriera degli anni 80, più più legato esclusivamente al periodo più wave e non wave. Da Bill Oswell ci spostiamo radicalmente, andiamo in terra inglese e andiamo a pescare un album e un gruppo che ha attraversato spesso 451 anche in passato, un album seminale negli anni 90 in un'elettronica assolutamente unica e originalissima. Parliamo di Birds of Canada, dal disco che è considerato un po' da tutti il miglior lavoro dei Birds of Canada in questi ormai 20 anni di produzioni musicali, Music as Right to Children, uscito nel 1998, e abbiamo estratto da questo disco assolutamente originale dei Birds of Canada una traccia, Aquarius, a cui si riferisce un vero e proprio legame a un film, anche perché Birds of Canada hanno utilizzato proprio dei campioni da questo film famoso Air del 1979, e dunque un riferimento molto chiaro. Si sentono questi bambini giocare, ridere, scherzare, questa atmosfera assolutamente sognante e solare che attraversa l'intero brano. E devo dire che Birds of Canada non è che siano sempre solari o così positivi spesso i brani, ma nello stesso album che adesso andremo a ascoltare ci sono dei momenti molto scuri, molto inquietanti, che hanno attraversato un po' questa biforcazione, questa bilateralità di Birds of Canada tra l'oscuro e l'estremo chiaro, l'estremo scuro e l'estremo chiaro. Andiamocela a sentire dunque dentro il nostro percorso di stasera, entriamo dentro proprio una dimensione estremamente solare con Birds of Canada, Music as a Right to Children. Siamo rientrati in diretta dopo aver mixato i Boards of Canada con un'altra formazione di quegli anni. 1997 esce l'album d'esordio degli Air, formazione molto conosciuta anche perché si è mossa in un'elettronica molto raffinata, ma lambendo chiaramente anche il synth pop, la trip hop, un'elettronica comunque che chiaramente dialogava anche con l'aspetto squisitamente pop, ma con grande, grande maestria, grande originalità. È una formazione che sicuramente ha segnato gli anni 90. 1997 l'album appunto Moon Safari, piuttosto conosciuto, che ha dato il là al percorso musicale compositivo degli Air, formazione francese costituita da Jean-Benoît Dunkel e Nicolas Godin. Disco sicuramente molto importante, un po' anomalo dentro, diciamo, il contenitore di 451, perché non sempre attraversiamo il pop, ma in alcune volte ci siamo anche dilettati ad attraversare, diciamo, il codice pop dentro certe musiche. E noi, continuando il nostro viaggio di stasera, ma prima di presentare l'ultimo lavoro che chiuderà la serata, queste sensazioni vitali che può essere quasi un manifesto del vitalismo sonoro e concettuale e esistenziale nonché politico, andiamo a ricordare un festival che è già iniziato lo scorso weekend, sabato e domenica scorsa, cioè ieri, l'altro ieri, ha iniziato il secondo festival AIQ Festival, dedicato proprio a Pier Antonio Pezzinga, nostro amico e compagno, ideatore di Intersezioni, che noi come percorso di compagni e amici strettissimi di Pier Antonio continuiamo proprio in questo contenitore che è stato infatti chiamato 451 Intersezioni, dedicato a Pier Antonio e organizzato dai nostri cari amici dell'area sismica Ravaldino in Monte in provincia di Forlì. Ci sono stati già due concerti sabato e domenica scorsa con la presenza di Paolo Angeli, tra i vari musicisti che si sono presentati in queste due giornate di concerti, e i prossimi due concerti saranno proprio sabato e domenica prossima. Esattamente sabato prossimo ci sarà il grande musicista e compositore Bob Ostertag, sabato appunto 25 aprile alle 22:30, e poi il giorno dopo, domenica, il progetto Natural Information Society americano, domenica dalle ore però 18, ve lo dico perché è un orario particolare, non dunque dalle 22:30 ma dalle 18. Poi ci sarà come al solito qualche pasteggio che verrà offerto dai cari amici romagnoli dell'area sismica, con la presenza, Natural Information Society, di Joshua Abrams al contrabbasso, Lisa Alvarado al harmonium e gong e Frank Rosalì alla batteria. Due concerti sicuramente da non perdere, speriamo anche noi per vari problemi personali di poterci essere a entrambi i concerti. Ve lo ricordiamo perché è un festival importante, soprattutto perché è un festival dedicato al nostro amico Pier Antonio, ma anche chiaramente per la qualità dei musicisti che saranno presenti sabato e domenica prossima. E noi continuiamo dunque, anzi finiamo il nostro percorso di stasera affrontando un personaggio piuttosto importante nella scena degli anni 90, degli anni zero, nell'elettronica più sperimentale e ardita, ma si è anche dilettato a giocare molto anche con l'hip hop, con frammentazioni collegate a una certa disco, a un certo funk jazz, un vero e proprio genio musicale che oltretutto è venuto anche alcune volte qui a Bologna a fare delle performance non molto pubblicizzate, pochi le conoscevano, ma è passata anche di qua e poi ama molto l'Italia, dunque attraverso spesso il nostro paese disastrato, direi io. E si tratta di Ter Temlitz, uno dei più importanti anche esponenti non soltanto musicali ma anche del movimento transgender, transqueer, che ha portato avanti le battaglie legate appunto a questo tipo di tematiche, ed è chiaramente oltretutto anche estremamente politicizzato, ovviamente dalle nostre parti, possiamo dire così, dunque sul nostro contesto anche politico. Musicista che 451 spesso ha voluto omaggiare con qualche traccia, con qualche album, tra gli innumerevoli album che ha costruito, non soltanto al nome Ter Temlitz ma anche come DJ Pringles, ma anche con altri progetti suonati insieme ad altri musicisti. Noi adesso invece lo andiamo a pescare da che disco? Da Love Bomb, uscito nel 2003. E perché? Perché c'è un lavoro splendido che Tertelmez fa sopra un nastro che poi manipola, sovrappone, effetta. È un nastro oltretutto piuttosto antico, perché si tratta del discorso di Tommaso Marinetti sulla sintesi musicale del linciaggio futurista. E così viene chiamato anche il brano che viene articolato da Tertelmez. Un lavoro splendido che dà l'idea perfettamente del connubio di questa serata di stasera, dedicata appunto alle sensazioni vitali, a quell'aspetto, al vitalismo, che era uno degli elementi cardine anche del movimento futurista, ma non solo. Ma è giustamente, mi sembrava anche bello chiudere la puntata di stasera dedicata a un certo, in un certo senso anche all'idea vitalista, a questo manifesto di Marinetti, che poi viene ovviamente manipolato, distorto e frammentato come sa fare lui da Tertelmez. Ce ne andiamo dunque ad ascoltare insieme. Io vi auguro ovviamente poi una buona serata con i programmi di Radio Città Fujiko, e ci ritroveremo sempre qua lunedì alle ore 21, alle ore 20, scusate, dalle 20 alle 21, sempre su Radio Città Fujiko per 451 intersezioni. Vi lascio dunque da Love Bomb, Tertelmez, sintesi musicale del linciaggio futurista. Buona serata. Hey, what's your name?

la guerra. Así, así la guerra.